Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia di questa settimana, di nuovo con voi Sebastiano Barisoni, siamo in diretta come ricordavano i nostri GR da Capri, dove si è aperto poco fa, circa due ore fa, il 25esimo convegno organizzato a Capri dai giovani imprenditori. I temi riguardano la flessibilità del mercato del lavoro, ma non solo, tutti quei meccanismi, quelle riforme anche che possono rendere più competitive le nostre imprese in questo periodo di crisi, e quindi flessibilità del mercato del lavoro, ma anche costi della burocrazia, costi della giustizia. Si parla molto di giustizia in queste ore, ma in questo caso ci riferiamo alla giustizia civile, che è il vero costo per le imprese, e poi costi anche dei mancati pagamenti della pubblica amministrazione. Interverranno, è intervenuta poco fa il ministro all'istruzione Maria Stella Gelmini, interverrà poi più tardi anche il ministro dello sviluppo economico Paolo Romani, domani poi la volta tra gli altri del vice segretario del PD Enrico Letta e poi del presidente del Senato Renato Schifani, concluderà appunto la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Diciamo, questi i temi del convegno, ne parleremo subito con la presidente dei giovani industriali Federica Guidi, che è il suo ultimo mandato, quindi il suo ultimo appuntamento di Capri, e poi come sempre i temi di questa giornata economico-finanziaria. Vi dico subito che la borsa è leggermente negativa, meno 0,16%, ma il caso di borsa si chiama Fondiaria SAI. Fondiaria guadagna infatti quasi il 4,6%. Che cosa è successo? Poco fa, un'ora fa praticamente, è giunta notizia che il gruppo assicurativo francese Groupama è entrato come socio di minoranza in Premafin, e quindi che è la società di controllo del gruppo Fondiaria SAI, non punta a modificare l'assetto di controllo, però Groupama potrebbe salire fino al 18% di Premafin, che è la cassaforte finanziaria della famiglia Ligresti, che appunto a sua volta controlla Fondiaria SAI. E Premafin ha deliberato l'aumento di capitale da 225 milioni di euro. Più volte abbiamo raccontato delle difficoltà in cui versa il gruppo Fondiaria SAI, anche e soprattutto per gli investimenti immobiliari effettuati negli ultimi anni. E dicevo, la borsa premia l'ingresso di Groupama con un più 4,6%, bene anche Terna più 1,7%, Mediaset più 1,5%, Bulgari più 1,1%, Fiat più 1%, come Ansaldo STS e Generali più 0,90%. Chi perde? UbiBanca il 2,7% e Intesa San Paolo meno 2,2%. CIR, Unicredito e Banco Popolare perdono l'1%, l'euro a quota 1,39. Ci occuperemo quindi delle tesi, delle richieste che arrivano dal mondo delle imprese, dei giovani imprenditori, ma anche di quanto è avvenuto a Bruxelles, vertice dei capi di Stato e di Governo, ma soprattutto decisioni importanti, dichiarazioni importanti dopo le tensioni che si sono registrate in Europa di fronte all'ipotesi, che una realtà, di un asse franco-tedesco per un rigore molto forte sui conti pubblici. L'idea di un asse all'interno dell'Unione Europea, come avete letto anche sui giornali, non è piaciuta in primo luogo ai Presidenti della Commissione Europea stesso. 349-238-6666 per i vostri sms, rapidamente le altre notizie in breve. Allora, partiamo con l'oro. L'oro è a quota $1,338 sui mercati asiatici, il petrolio resta a $81,7. Il dato importante a livello americano è il PIL del terzo trimestre, però è un dato, almeno una volta tanto, in linea con le attese, più 2%, e quindi è un dato che comunque segnala un'accelerazione, non fortissima, ma nella ripresa economica americana. Nel secondo trimestre infatti il PIL americano era cresciuto dell'1,7% e adesso invece del 2%. Tra l'altro il Dipartimento del Commercio segnala una netta decelerazione delle importazioni, quindi calano le importazioni e invece aumentano i consumi delle famiglie americane. Volete già sapere del Consiglio Europeo? Ne parliamo più avanti. Comunque oggi è arrivato un via libera a una modifica leggera, la formula leggera, diciamo, del patto Merkel-Sarkozy, o quindi modificare leggermente il Trattato di Lisbona. È necessario questo passaggio per avviare poi il fondo anticrisi permanente, quello che deve servire da ciambella di salvataggio per casi simili a quello greco. Parleremo anche della disoccupazione italiana, perché oggi lì è stato diffuso il dato, polemica anche con il ministro Sacconi. Il dibattito è quello innescato dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia, quando calcola i disoccupati, inserisce anche i cassi integrati, l'Istat no. Su questo comunque il dato è un dato sempre sotto la media europea, ma è un dato in cui si segnala un'ulteriore perdita di posti di lavoro. Perché è salita la disoccupazione in Italia, a settembre all'8,3% contro l'8,1% di agosto, ne parleremo più avanti. Quella giovanile, visto che siamo al convegno dei giovani imprenditori, è salita al 26,5%, anche in Europa è salita leggermente, è salita più in Italia che nel resto d'Europa, al 10,1%, ripeto, la polemica però su cui ieri sono intervenuti anche il ministro Tremonti e il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, è se questa disoccupazione deve poi tenere conto anche dei cassi integrati oppure no. Se si tenesse conto dei cassi integrati saremmo all'11%, quindi anche leggermente sopra la media europea. È calata invece per la prima volta in Spagna la disoccupazione, la prima volta da praticamente 3 anni che c'è un leggero calo della disoccupazione. Per quello che riguarda invece i temi di casa nostra, se da un lato oggi si è saputo che i prezzi della benzina, è uscito il dato sull'inflazione, l'inflazione è salita a ottobre all'1,7% in Italia, i prezzi della benzina hanno fatto più 8,5% la benzina, più 12% il gasolio rispetto all'ottobre di un anno fa. La produzione industriale è andata bene, più 4%, e quanto prezzi della produzione industriale è il massimo dal 2008. Ma sempre per restare in tema d'Italia, oggi nel corso del Consiglio dei Ministri di nuovo fumata nera sul nome del futuro presidente della Consob. Si attendeva forse oggi il nome, due sono i nomi, soprattutto quello del sottosegretario Vegas, che circolano con più forza. Nulla di fatto invece in Consiglio dei Ministri, e quindi la Consob, ossia l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari, tanto invocate queste autorità, le regole sui mercati, i controllori dopo quello che è successo diciamo tra 2008 e 2007 sui mercati finanziari, dicevo, l'Italia è ancora senza presidente e lo è da 123 giorni. Però la Consob continua a lavorare e ha oggi dato una multa, una maxi multa da 400.000 euro ad Antonio Baldassarre per aver diffuso informazioni false e fuorvianti nella fase di privatizzazione dell'Italia, informazioni che tendevano a accreditare l'esistenza di una coorte di imprenditori per rilevare la compagnia. Del collocamento di Green Power parleremo anche nel corso dei mercati, interamente sottoscritto comunque al prezzo di 1,6 euro. Queste le notizie in breve. Allora io vorrei partire subito con il tema che ci vede qui presenti a Capri, le tesi al 25esimo congresso e convegno dei giovani imprenditori a Capri. Il titolo è un titolo evocativo, ma dentro cui si può mettere un po' di tutto: lo sguardo di oggi sull'impresa di domani. E appunto, dicevamo, numerosi ministri presenti, il ministro dell'istruzione Gelmini, Paolo Romani oggi pomeriggio, domani il vice segretario del PD Enrico Letta. I temi che vengono sottolineati dai giovani imprenditori, devo dire, questa volta non sono così diversi da quelli che sottolineano i loro colleghi più senior, quindi gli imprenditori più anziani, cioè i costi che questo paese deve sopportare quando si fa impresa, che sono costi da un lato di carattere appunto di relazioni industriali, di mancata flessibilità del mercato del lavoro, ma non solo, come ci racconta questa scheda. Polonia, Madagascar, Botswana e Armenia meglio di noi. Difficile da credere, ma l'Italia è dietro questi paesi per libertà economica. Una gestione inefficiente delle finanze pubbliche, una corruzione diffusa e un elevato carico fiscale ci posizionano al 74esimo posto su 179 paesi nell'Index of Economic Freedom 2010. Non va poi meglio quanto a competitività. Per il World Economic Forum siamo al 48esimo posto su 139, superati dai maggiori paesi industrializzati. E come può essere competitivo un paese dove la criminalità organizzata ha un giro d'affari pari al 15% del PIL e l'evasione fiscale ammonta a 120 miliardi l'anno? E come può affrontare le sfide competitive un'Italia tagliata in due, con un sud da cui ogni anno emigrano 20.000 laureati e un nord, al contrario, che accoglie sempre più imprese che dal mezzogiorno delocalizzano? E dire che il sud potrebbe avvantaggiarsi dalla vicinanza con mercati in crescita, come i nordafricani, vantaggi che si annullano anche a causa di infrastrutture incomplete da decenni. Non decenni, ma sempre notevole il tempo che le aziende perdono per le lungaggini del sistema giudiziario. Per un processo civile occorrono in media 960 giorni per una sentenza di primo grado, 1.509 per l'appello e altri 912 se la sentenza va in Cassazione. Lungaggini che costano ogni anno 2,3 miliardi alle nostre imprese. Ancora maggiore il conto annuo della burocrazia, 16 miliardi e biblici tempi per avviare un'attività. In media 11 mesi, il doppio della media OCSE. Elevata anche la pressione fiscale. Il reddito d'impresa è tassato al 31,4%, la media europea è sotto il 23,2%. Altissima poi la montagna di crediti che le imprese vantano verso la pubblica amministrazione. 60-70 miliardi. Ma in questo scenario di criticità, che sono sempre le stesse, è fondamentale che le nostre imprese siano aiutate da un sistema formativo al passo coi tempi. Mercato del lavoro e aziende spesso guardano da una parte, giovani e famiglie dall'altra. Nel 2008 le imprese non hanno trovato 181.000 diplomati tecnici e professionali. Nel 2009, nonostante la crisi, ne mancavano 84.000. Paradossale poi che con una disoccupazione giovanile al 26%, quest'anno difficilmente si copriranno 147.000 posti di lavoro. Sono infatti introvabili panettieri, sarti, falegnami, camerieri e muratori. E allora, come ricordava la nostra scheda, questi i temi del 25esimo convegno dei giovani imprenditori qui a Capri e nei nostri studi, qui a Radio 24. La presidente dei giovani imprenditori, Federica Guidi, buonasera innanzitutto. Buonasera. Ricordava la nostra scheda tutti i limiti, che le classifiche spesso poi possono essere anche fuorvianti, essere dopo Polonia, Madagascar, Botswana, Armenia, può voler dire tanto, ma anche essere in qualche modo distorcente. Voi in realtà, in questa prima giornata di lavori, poi anche domani, gli ospiti li ricordavamo, ma vi occuperete di un tema che in qualche modo va a chiudere il cerchio della sua presidenza, visto che poi questa è la sua ultima Capri come presidente. Se non ricordo male, nel 2008, quando intervenne per la prima volta, chiese o evocò dei contratti quasi tailor-made, quasi ritagliati su misura secondo le aziende, era una provocazione chiaramente, però nel frattempo è successo di tutto, la crisi non solo, e c'è un elemento che ormai si chiama il marchionne pensiero, per cui si dice attenzione, occorre modificare i livelli contrattuali su base nazionale per le necessità che hanno le imprese se si vuole mantenere la produzione della Fiat in Italia. Il bilancio intanto di questi tre anni sul fronte della flessibilità del lavoro, qualcosa si è ottenuto oppure ha avuto più potere la crisi e l'impellenza che essa porta rispetto alle promesse anche della politica? Beh, diciamo che certamente la crisi è stato un acceleratore di tendenze che in realtà io penso ci fossero già in giro per il mondo. Per questo io dico, è evidente che quello che oggi sta facendo la Fiat è ingombrante, insomma il fatto che lo dica la Fiat è di per sé roboante come messaggio, ma di fatto era una situazione che molte anche medie imprese italiane, non solo le grandi, le medie, le piccole, stavano già vivendo da tempo, perché appunto erano in giro per il mondo e vedevano quello che stava succedendo. Il mondo mondo è cambiato, io non so se sia possibile dare un giudizio di merito, non lo voglio nemmeno dare, non voglio dire che sia giusto o sbagliato, semplicemente un dato di fatto, il mondo è cambiato, non viviamo più con le stesse, con lo stesso diciamo schema di 2 o 3 anni fa e quindi ci servono regole nuove. Noi viviamo oggi con degli schemi contrattuali che risalgono al 1970 e quindi insomma noi stiamo parlando di cose che sono cambiate nell'arco di 2 anni, è evidente che strumenti che sono hanno ormai più di 30 anni, almeno il dubbio che siano datati può venire, ecco. Il timore però dei sindacati, diciamo, al di là delle varie posizioni che abbiamo molto raccontato anche in questo programma, è che la flessibilità sia una flessibilità sempre, diciamo, a ribasso. O meglio, se si citano modelli anche stranieri, si fa notare però che i salari sono più alti. Allora è impensabile in questo momento, con una produttività già bassa come abbiamo, aumentare, diciamo, in media tutto il monte salari, ma lei ritiene che si riesca anche a coniugare flessibilità, quindi orari, disponibilità più ritagliate sulla base delle esigenze dell'impresa, anche a livello stagionale? Sappiamo che non tutte le imprese hanno lo stesso tipo di produzione su base annua, ma accompagnandoli anche degli incentivi salariali? Io credo che si debba, e quello che noi diremo oggi è che appunto da quando noi ci siamo insediati in questa presidenza e parlammo, come lei ricordava, del contratto ad persona, che naturalmente era una provocazione, ma insomma era una provocazione visionaria, ecco, in 2 anni oggi fortunatamente la contrattazione di secondo livello, quindi la contrattazione aziendale, è un dato di fatto, e iniziamo a parlare di una possibilità di modifiche, di deroghe ai contratti nazionali, e questo entra nella piattaforma di almeno 2 sindacati di quelli che, insomma, dei 3 che abbiamo, e ci auguriamo naturalmente che con un po' di discussione, con un po' di dialettica, come è giusto che sia, insomma quasi tutta o tutta, ecco, la parte sindacale poi converga. È evidente, bisogna creare ricchezza e bisogna in qualche modo poi dividere questa ricchezza. Nessuno pensa oggi in Italia di abbassare i salari. Il problema è creare le condizioni perché la torta si allarghi e questa torta poi venga ridivisa. È evidente che non si può distribuire nulla di più se prima non c'è il prerequisito della creazione di maggiore ricchezza. Nella nostra scheda ricordavamo altri elementi che poi vengono toccati in questi 2 giorni dei giovani industriali a Capri, e mi riferisco ai costi della burocrazia, ai costi anche della pubblica amministrazione, i famosi 60-70 miliardi di crediti che ancora le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione, soprattutto al sud e soprattutto, direi, in stragrande maggioranza nel settore sanitario, e anche i costi della giustizia. Allora, è chiaro che far ripartire il paese, rendere più competitive le nostre imprese, non si può fare solo con la contrattazione anche di secondo livello. È delusa dall'assenza di risposte che sono arrivate in questi anni come riforme vere e proprie, nei temi che ho citato a volo d'uccello? Beh, io credo che il governo abbia fatto bene, soprattutto considerando che, insomma, quello che ci è arrivato addosso negli ultimi 2 anni non è stata solo una crisi, io credo che sia stato un cambiamento epocale. Quindi la tenuta dei conti pubblici, insomma, il governo Berlusconi ha operato bene nelle more della crisi. Naturalmente tutti noi oggi diciamo servono misure di rilancio, ecco, servono misure per far crescere il PIL, non solo oggi per tamponare in qualche modo cosa che è stata fatta egregiamente nelle more della crisi. E questo significa rilanciare gli investimenti, significa anche considerare che le medie imprese italiane non possono vivere solo di tentata vendita all'export, e quindi la fiducia nel fatto di fare investimenti in Italia significa anche ricreare un mercato domestico per molte medie aziende italiane, cosa fondamentale. E quindi servono misure sulle politiche fiscali, servono investimenti, servono infrastrutture. Ecco, io credo che si debba cercare di continuare a spingere, a pungolare il governo a dare risposte in fretta, soprattutto il fattore tempo è un fattore determinante oggi, su tutti questi aspetti che poi si traducono in sintesi nel investimenti per la crescita. Ecco, su questo molti suoi colleghi della Confindustria ricordano però che esistono delle riforme, fermo restando, come ha detto anche oggi Tremonti, che non c'è molta trippa per gatti con questo deficit e questo debito. Ci sono delle misure a costo zero, lo snellimento burocratico, anche la velocizzazione dei processi civili, ci si occupa sempre del processo penale, ma il vostro problema, se ho ben capito, è il processo civile soprattutto. Beh, queste sarebbero riforme a costo praticamente zero come impatto su deficit e debito. Sono riforme a costo zero, e dirò di più, è vero, oggi i soldi pubblici, diciamo così, sono sotto la morsa della tenuta, insomma, dei conti Però ci sono moltissimi investimenti privati bloccati per problemi autorizzativi, vincoli burocratici, comitati antitutto che nascono come funghi, pastoie burocratiche che fanno sì che molti investimenti esteri non arrivino nel nostro paese ma arrivino in paesi molto vicini a noi, paesi che oggi fanno anche parte dell'Unione Europea, e non solo perché vengono dati incentivi ma perché l'apertura di un'azienda, l'apertura di uno stabilimento, l'altezza del gradino, diciamo così, vengono valutati in maniera più ragionevole e più razionale. Ecco, queste sono le famose riforme a costo zero che potrebbero rilasciare immediatamente anche parecchi investimenti privati. Ancora due domande, diciamo, più sull'eredità che lascia, visto che è l'ultima volta come presidente di Confindustria Giovani, ci mancherebbe che interviene a Capri. Che cosa è, diciamo, la delusa rispetto a 3 anni fa, quando aveva preso in mano il mandato che sperava di ottenere? Che cosa non si è verificato e che cosa invece lei vive come, insomma, con orgoglio, come una medaglia, qualcosa che si è raggiunto? Ma io adesso forse rischio di essere banale. Sinceramente sono felice del fatto di aver continuato la mia carriera nei giovani imprenditori. Io considero questa, diciamo, mia parentesi naturalmente finale nei giovani imprenditori come un percorso che in realtà è iniziato molti anni fa. Sono felice di vedere un movimento che ha cambiato pelle, l'ha cambiata insieme a me, io l'ho cambiata insieme a loro, insomma, perché noi siamo lo specchio dei nostri tempi, insomma, siamo imprenditori, lavoriamo nelle fabbriche 12 ore al giorno e cerchiamo di interpretare al meglio il nostro ruolo di stimolo e di pungolo per la società, per il governo e anche per Confindustria stessa. Abbiamo cercato di dare questo contributo, ecco, la mia soddisfazione è di vedere appuntamenti come questo molto partecipati, soprattutto da parte dei giovani imprenditori. E comunque appuntamenti come questi che vengono in qualche modo seguiti, ecco, dall'opinione pubblica. Poi noi non siamo parte sociale, non possiamo, voglio dire, permetterci di dare ricette semplici a problemi così complessi. Forse potevamo fare di più, può darsi, naturalmente insomma, un minimo di dubbio sul fatto che potevamo essere più incisivi mi viene, ma perché è evidente che non possiamo avere la pretesa di aver fatto in maniera eccellente il nostro lavoro. Però ecco, non è tanto quello che ho fatto io, ma è quello che ha fatto un movimento di persone che da molti anni e soprattutto negli ultimi anni, nonostante appunto la situazione di difficoltà, ha rubato tempo alle proprie aziende, alle proprie famiglie e ha messo molta, diciamo, molta vitalità, ecco, nel cercare di dare un contributo fattivo al miglioramento di questo paese. Ecco, non vorrei fare un'intervista alla Marzullo, con tutto il rispetto che ho per Marzullo, però un rammarico ce l'ha, così come bilancio. Beh, forse il rammarico, le dico, è un rammarico del tutto personale, nel senso che termino una bellissima esperienza, la termino volentieri, ma naturalmente come tutti, dato che ho superato anche il limite, diciamo, anagrafico per rimanere all'interno dei giovani imprenditori, il mio rammarico è che da quando scadrò il mio mandato sarò ufficialmente un ex giovane imprenditore, quindi questo è un mio rammarico personale, ma molto, che sento particolarmente. Allora, adesso c'è il meteo e la pubblicità e poi, Presidente, ragioniamo anche di alcune cose che hanno a che fare proprio con i giovani. Poco fa è intervenuto il Ministro Gelmini, vedo dei messaggi anche al 349-238-6666 che dicono: ma insomma, più che giovani imprenditori sono i figli giovani di imprenditori. Sì, come avviene, ne abbiamo parlato molte volte, per le professioni in questo paese, l'ascensore sociale è un po' bloccato, per essere buoni, e molte volte i giovani avvocati sono figli di avvocati, i giovani architetti figli di architetti, i giovani medici figli di medici, i giovani giornalisti figli di giornalisti. Questo è un problema del paese. Comunque, i giovani, la sfiducia da un lato e la richiesta invece di sgomitare un po' di più dall'altro, dopo il meteo e la pubblicità. Poi anche la borsa, che ha chiuso leggermente negativa. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni per questa parte di Focus Economia, in cui andremo a commentare anche la chiusura di borsa, il caso Fondiaria SAI con l'ingresso di Groupama, che ad aumento capitale concluso arriverà ad avere quasi il 17% di Premafin, e quindi la finanziaria che controlla Fondiaria SAI. Fondiaria ha guadagnato il 5,90% in una giornata piuttosto piatta in borsa. Vorrei però concludere il ragionamento che stavamo facendo con la Presidente degli Industriali, dei giovani industriali, Federica Guidi, visto che siamo qui a Capri negli studi di Radio 24 durante il convegno dei giovani imprenditori. Due temi ancora, Presidente Guidi, i giovani. In sostanza, in queste settimane abbiamo letto di tutto, ma riconducibile a due filoni. C'è chi dice insomma, questi giovani sono demoralizzati, sfiduciati, perché la prima generazione che per la prima volta sa, dà per scontato che guadagnerà meno dei padri, e la generazione 1000 euro e il precariato e quant'altro, e c'è invece chi dice attenzione, però i problemi, le crisi economiche c'erano anche nel dopoguerra, ci sono state difficoltà negli anni 70, anche in altri anni, occorre che loro stessi si rimbocchino le maniche, sgomitino un po' di più e quindi non stiano solo lì ad aspettare che il posto venga liberato. Lei, appunto, che presiede i giovani di Confindustria, che ne pensa? Sì, credo che ci siano delle ragioni oggettive, insomma, di preoccupazione, quindi sarebbe sciocco, ecco, dire che i giovani italiani si preoccupano per nulla e sono tutti dei fannulloni. Ci sono delle ragioni oggettivamente per essere preoccupati, dico però anche che appunto negli anni del dopoguerra non credo che i giovani di quell'epoca avessero la certezza di avere un futuro migliore, cioè bisogna anche in qualche modo costruirselo. Noi abbiamo passato, secondo me, un po' di anni a pensare che questo egualitarismo imperante facesse bene soprattutto ai giovani, e li abbiamo un po' disabituati a parlare di doveri, di parlare di sacrificio, ecco, si è parlato molto di diritti e poco di doveri, il che non significa negare che oggi, soprattutto per alcune fasce più deboli, il momento non sia semplice e che la paura nel futuro è corretta, perché obiettivamente il futuro, voglio dire, spaventa. Però ecco, aprire questa innovazione culturale di cui parleremo oggi è fatta anche per dare a questo punto un significato al termine merito. Un merito per me vuol dire dare uguali condizioni di partenza, poi naturalmente, come in ogni competizione, c'è chi va un po' più avanti e c'è chi rimane un po' più indietro. Un'ultima domanda che riguarda i giovani e le donne, quindi insomma le due caratteristiche che lei incarna. Lunedì prossimo ci occuperemo di questo disegno di legge che ha già ottenuto l'approvazione in una delle due camere, desta qualche perplessità in alcuni ministri, Giovanardi l'ultimo. È un disegno di legge che prevede per legge che nei consigli di amministrazione vi sia almeno un, si arrivi nell'arco di qualche anno ad almeno un terzo delle cosiddette quote rosa, di presenza femminile, ricalcando quello che è avvenuto in Norvegia con estremo successo. In 4-5 anni hanno portato la componente femminile nei consigli di amministrazione al 40%. Allora, c'è chi dice, questa è l'obiezione che viene fatta, che in realtà quello è un principio in cui viene sospeso il merito, perché obbligare un CDA ad avere almeno un terzo di donne significa non valutare il merito, ma diciamo la gender issue, cioè l'aspetto sessuale, non l'aspetto meritocratico. L'altra obiezione che viene fatta dall'altra parte invece è: attenzione, se non facciamo così ci vorranno 20-30 anni per arrivare a pari opportunità di ingresso e quindi a un merito vero tra componente femminile e componente maschile anche nei consigli di amministrazione. La sua posizione? Sì, anch'io ho un'opinione mista. Non mi piace il principio, come non mi piace dire che i giovani sono per forza, per definizione, meglio dei senior. Però dico anche che serve una cura shock, serve uno scossone, quindi la prendo come una provocazione. Mi auguro che duri poco, che sia qualcosa che in qualche modo serva a dare appunto una scossa al sistema, ma che poi diventi normale, naturale, considerare che una donna può entrare a far parte di un consiglio di amministrazione, può entrare a far parte di un board, può... Ecco, dico anche che i paesi del nord Europa sono all'avanguardia, ma anche perché hanno politiche a sostegno della conciliazione del tempo famiglia-lavoro decisamente migliori delle nostre. Quindi, come dire, anche qui forse dobbiamo anche però lavorare su quello che io ritengo essere ancora il vero motivo che oggi limita non solo la presenza di donne nei consigli di amministrazione, ma purtroppo la presenza di donne nel mondo del lavoro e soprattutto con qualifiche professionali adatte rispetto al percorso di studi che molto spesso le donne hanno compiuto, che sono in genere addirittura superiore a quelli dei colleghi maschi, ma che poi non riescono a essere, diciamo così, riconosciute nel mondo del lavoro, perché sappiamo che oggi i tempi del lavoro comportano una flessibilità, insomma una serie di condizioni a contorno che molto spesso oggi per una donna che non abbia magari possibilità economiche per, come dire, procurarsi gli aiuti domestici sono molto difficili da ottenere. Quindi giudizio misto, spero che duri poco, dall'altra parte forse ci vuole, perché altrimenti effettivamente continuiamo a parlarne ma poi non cambia mai nulla. Beh, devo dire che da questo punto di vista vedevo anche i messaggi al 349-238-6666. Noi come gruppo Sole 24 Ore abbiamo un amministratore delegato del gruppo Donna, un amministratore delegato della radio Donna, un presidente di Confindustria Donna, un presidente dei giovani Donna. Noi siamo all'avanguardia. Dateci le quote blu a questo punto, perché non abbiamo null'altro da aggiungere. Grazie, in bocca grazie al lupo. Grazie a voi, buon pomeriggio. Alla presidente dei giovani industriali Federica Guidi. Grazie. E non avevo dubbi che toccare il tema delle quote rosa avrebbe portato numerosi messaggi. Ne parliamo lunedì, c'è un disegno di legge, ripeto, votato e approvato in maniera bipartisan, su cui però alcuni ministri, Giovanardi soprattutto, hanno espresso qualche obiezione. Allora, abbiate pazienza, lunedì, tra l'altro lo dico a chi ci sta scrivendo, le borse sono aperte, quindi saremo regolarmente in diretta. E a proposito di borse, adesso i mercati. Meno 0,3% Milano, invariata Parigi, invariata leggermente positiva Francoforte, più 0,1%, l'America perde lo 0,25%, Londra più 0,1%. Il caso, come ricordavamo in apertura di borsa, oggi è rappresentato da Fondiaria SAI, o meglio dalla finanziaria di controllo che si chiama Premafin, la cassaforte della famiglia di Gresti, dove è entrato il gruppo francese Groupama, varato anche un aumento di capitale da 225 milioni, e Groupama arriverà fino al 18% del capitale. Allora, come sempre, il commento con i colleghi dell'agenzia di stampa Radio Coro e Sole 24 Ore. Andrea Fontana, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, partiamo subito da Fondiaria SAI, più 5,90, poi dopo il traffico facciamo gli altri titoli. Sì, come tu hai detto, l'ingresso di Groupama in Premafin, non direttamente in Fondiaria, era atteso dalle ultime indiscrezioni degli ultimi giorni. È l'accordo che, diciamo così, mette in sicurezza la situazione finanziaria tanto della holding quanto della compagnia assicurativa, però con l'ingresso di un socio molto importante come il gruppo assicurativo francese. Abbiamo visto come, dopo essere state sospese per gran parte della giornata, hanno risposto i titoli. Per Premafin più 8,4%, miglior titolo in assoluto di Piazza Affari. Per Fondiaria SAI più 5,9%, miglior titolo del FTSE MIB. Da ricordare che appunto ci sarà un aumento di capitale a 1,1 euro, e Premafin si è quasi allineata al prezzo dell'aumento di capitale, chiudendo a 1,075, e trascinando con sé chiaramente anche la controllata Fondiaria SAI, più 5,90% a 8, sopra gli 8 euro, 8,06 euro per azione. Premafin finanziaria, come tu ricordavi, più 8,37% a 1,075 euro, secondo miglior titolo in assoluto Risha Ginori, più 7,60, e poi appunto Fondiaria SAI. Il traffico e gli altri titoli, e anche un accenno a Enel Green Power, che ha chiuso oggi il collocamento. Allora, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni per commentare la borsa. Al di là del caso Premafin, Andrea Fontana, e quindi Fondiaria SAI, oggi positiva Terna più 1,80, Mediaset più 1,5, Bulgari più 1,25, Fiat più 0,91. Su Mediaset ci sono anche notizie che arrivano dalla Spagna. Sì, è arrivato l'atteso ok dell'antitrust spagnola alla fusione tra Telecinco e 4. Il mercato ha risposto bene, non solo sul titolo Mediaset, tu ricordavi, più 1,5%, ma anche sulla stessa Telecinco, che ha guadagnato quasi il 7% in Spagna. Ricordiamo, la fusione era stata annunciata a dicembre dell'anno scorso, ma l'iter autorizzativo da parte dell'autorità garante della concorrenza è stato piuttosto lungo, è arrivato solo oggi, ponendo piccole condizioni, insomma limitate condizioni a Telecinco, ma è stato apprezzato dal mercato, come abbiamo visto. Allora, chi è andato male oggi in borsa? UbiBank meno 2,90%, Intesa San Paolo meno 2,32%, Unicredito meno 1,30%, CIR meno 1%, come il Banco Popolare, Mediobanca meno 1%, Prismian meno 0,80%, come Geox e Buzzi Unicem. Deboli quindi i bancari, devo dire che anche la Popolare di Milano ha perso lo 0,44%. Su Unicredit ci si poteva attendere forse qualcosa di più, Andrea Fontana, dopo le dichiarazioni di Ghizzoni di ieri, il nuovo amministratore delegato, che ha detto insomma, sono più positivo per il 2011 che per il 2010, ci stiamo riprendendo dalla crisi, evidentemente il mercato si è concentrato sull'anno in corso. Sì, questo questo senz'altro. Oggi ancora, tra l'altro, da Verona Ghizzoni, appunto l'amministratore delegato, ha parlato di un risultato a fine anno, nel terzo trimestre meglio, che sarà sostanzialmente in linea con le aspettative, quindi non ha acceso particolarmente il mercato. Sul titolo pesa ancora peraltro il dibattito interno alla governance, quindi alle cariche principali, ma come abbiamo visto ha un po' pagato quello che è l'andamento un po' di tutto il settore. UbiBanca oggi ha sofferto meno 2,9% anche per l'emissione di un bond dagli analisti considerato un po' troppo, con condizioni un po' troppo care per UbiBanca, mentre Intesa San Paolo ha un po' pagato le indiscrezioni che la vorrebbero in corsa per rilevare l'istituto polacco Pol Bank, divisione polacca di FG Eurobank, e questo ha un po' pesato all'interno di un settore sottotono. Sì, ricordavi giustamente Unicredit, la governance, il mandato del presidente Rampl, lui stesso ha ricordato, io scado ad aprile, ma insomma un po' sempre di incertezza nella governance di Unicredit. Andiamo ai titoli un po' più sottili oggi, visto che siamo in finale di settimana, dicevamo dei migliori, Prema, fine appunto, Fondiaria, ma molto bene anche Stefanel, più 4%. Sì, una bella risposta di Stefanel a quella che è un'operazione già circolata nelle indiscrezioni, ovvero la vendita della propria partecipazione nella partecipata francese Nuance Group, che si occupa appunto di attività retail negli aeroporti. È stata venduta al fondo di private equity Pi Partners per 106 milioni, il 50% appunto era controllato da Stefanel. Era un'operazione attesa, diciamo, per alleggerire l'impegno di Stefanel in questo settore. Il mercato, che già aveva ben risposto all'indiscrezione, ha risposto bene anche alla formalizzazione dell'operazione. Allora, il peggior titolo invece oggi in borsa è stato Vita, società editoriale, meno 15%, poi Basic Net meno 9,23%, Valsoia meno 4,60%, Vivendi meno 4,30%. Grazie ad Andrea Fontana e buon fine settimana a te e a tutti i colleghi dell'agenzia Radio Corriere Sole 24 Ore. Grazie. E chiuso il capitolo di borsa, iniziamo quello che sarà il prossimo tema, prima di poi collegarci con Bruxelles, e mi riferisco al dato diffuso oggi dall'Istat sui disoccupati. E qui è polemica anche con il ministro Sacconi, insomma, riassunto delle puntate precedenti, la Banca d'Italia un mese fa circa disse: attenzione, la disoccupazione, se si prende in considerazione anche la cassa integrazione, la disoccupazione in Italia è a livello europeo, ci siamo intorno all'11%, risposta un po' piccata anche del governo, che disse: attenzione, no, la disoccupazione in Italia è all'8%. Dato di oggi è salita in Europa al 10,1%, è salita un po' di più in Italia la disoccupazione all'8,3%, e di nuovo anche il ministro Sacconi è tornato sul tema, devo dire sollevato ieri dal governatore della Banca d'Italia durante la giornata mondiale del risparmio, che ha visto ieri anche una convergenza con il ministro Tremonti. Comunque andiamo con ordine, prima di tutti i dati diffusi oggi dall'Istat sui disoccupati in Italia riassunti in questa scheda. Non certo positivi, i dati sul mercato del lavoro di settembre sono tuttavia, per alcuni versi, meno peggio di quel che sembra. Come sottolinea lo stesso Istat, emergono segnali di una maggior partecipazione al mercato del lavoro. Sono infatti scesi i cosiddetti inattivi, ossia coloro che non hanno un lavoro e dunque non figurano tra gli occupati, ma che neppure lo cercano e pertanto non compaiono nemmeno tra i disoccupati. Il tasso di inattività, che dallo scorso aprile in poi aveva conosciuto una vera e propria impennata, ha registrato lo scorso settembre una prima timida riduzione, passando dal 38,1 al 37,9% della popolazione in età lavorativa. Questo spiega in parte perché, a fronte di un lieve aumento degli occupati, saliti in un mese di 35.000 unità, siano al contempo cresciuti anche i disoccupati, che rappresentano oggi l'8,3% della forza lavoro. Resta particolarmente drammatica la situazione dei più giovani, di cui oltre uno su quattro è senza un impiego. Tra i 15 e i 24 anni, il tasso di disoccupazione si colloca infatti al 26,4%, con una preoccupante accelerazione rispetto al 25% dello scorso agosto. Infine, rimane sostanzialmente stabile e tra i più bassi d'Europa il tasso di occupazione, salito dello 0,1 a quota 57%. E riprenderemo dopo il GR questa polemica su quanta sia la disoccupazione in Italia. Hanno ragione però gli ascoltatori che chiedono al 349-238-6666 un commento su Enel Green Power. Chiuso il collocamento interamente sottoscritto, il prezzo è quello che era già anticipato oggi sui giornali, è 1,6 euro per azione. Enel, la controllante, ha guadagnato mezzo punto percentuale. Il GR e poi la disoccupazione e l'accordo raggiunto a Bruxelles. E 10 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni qui da Capri, dagli studi di Radio 24, per il convegno dei giovani imprenditori di Confindustria, prima giornata di lavori, e ne abbiamo già parlato, come abbiamo già parlato della chiusura di borsa a meno 0,3%, ma con il botto di Fondiaria Assai dopo l'ingresso in Premafin di Groupama e l'aumento di capitale che porterà poi Groupama a arrivare fino al 17,9%. Il titolo è cresciuto moltissimo, un titolo Fondiaria Assai, oltre che il titolo Premafin. Fondiaria ha fatto infatti il 5,90%, Premafin, che ripeto, chi ce lo chiede, è la cassaforte finanziaria della famiglia di Gresti, che controlla anche Fondiaria Assai, più 8,37%. Ci stavamo occupando del mercato del lavoro, dato di oggi dell'Istat, disoccupazione che a settembre è salita in Italia all'8,3%, in Europa è salita al 10,1%, dal 10%, una crescita un po' più forte in Italia. I commenti su questo e la polemica che resta sotto traccia su come calcolare la disoccupazione. I cassi integrati vanno o non vanno inseriti? La Banca d'Italia in uno studio li ha inseriti e si scopre che se inseriamo i cassi integrati, che da un punto di vista statistico non sono tecnicamente disoccupati, ma in realtà molti economisti dicono attenzione, all'estero chi riceve il sussidio di disoccupazione viene considerato disoccupato e la cassa integrazione per alcuni versi è un sussidio di disoccupazione. Comunque, se si inserisce la cassa integrazione si arriva all'11%. Il commento dato di oggi, il presidente di Confindustria, è la Marcegaglia. Sì, dall'8,2 all'8,3, il tasso di disoccupazione è alto, ma è più basso della media europea, è comunque alto, deve essere, come dire, il tema sul quale tutti noi lavoriamo, disoccupazione e crescita delle imprese. C'è un problema anche molto forte di imprese, noi rischiamo di avere anche varie imprese che non riescono più a stare sul mercato. E questo qui ci deve essere la concentrazione massima degli sforzi di tutti, delle parti sociali, del governo, dell'opposizione. Così Emma Marcegaglia, ma dicevamo il metodo di conteggio, risposta molto piccata oggi a un giornalista che gli faceva questa domanda da parte del ministro del welfare Sacconi. Il giornalista riprendeva il metodo di calcolo della Banca d'Italia, così che include anche i cassi integrati, e porterebbe la disoccupazione all'11%. La risposta del ministro Sacconi. Lei dice che il cassa integrato è un disoccupato. Il cassa integrato ha un rapporto di lavoro. È questa la differenza. E lo scoraggiato? Elementare. E elementare. Lo scoraggiato ha un rapporto di lavoro pure? No, lo scoraggiato è un'altra cosa ancora. Lo scoraggiato però è una persona che non cerca un lavoro. Non è detto, però può farlo perché liberamente una madre di famiglia può decidere di dedicarsi ai figli. Può farlo invece perché ha perso la motivazione a cercare un lavoro. Questa, non a caso, con i dati di oggi dell'Istat, cresce la partecipazione al mercato del lavoro e anche la crescita di questo 0,1 del tasso di disoccupazione è legata a questa maggiore partecipazione al mercato del lavoro. Partecipazione intendesi persone che si offrono sul mercato del lavoro mentre prima non si offrivano. Ma guai a confondere un cassa integrato con un disoccupato. O uno scoraggiato. Perché con un parliamo del cassa integrato, siccome lei ha parlato del cassa integrato, lei da militante ha parlato del cassa integrato. Sì, lei è molto militante, è come no, lo sa, perché lei ha continuato a dirmi che il cassa integrato è un disoccupato ed è militante e un po' ignorante, mi dispiace.

sulla riforma del patto. Molte tensioni nei giorni scorsi per via della linea franco-tedesca che è stata rifiutata come un'imposizione. Un accordo si è trovato, ce lo racconta il nostro Sergio Nava. Sergio, buonasera. Buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori. Sì, l'accordo si è trovato già nella notte, oggi semplicemente è stato ratificato. Di fatto l'Europa allora cosa ha deciso? Ha deciso di rendere permanente il fondo di salvataggio anticrisi già adottato con la Grecia, dovrebbe diventare permanente al 2013. L'intenzione è quello di trovare il modo di aprire una clausola, mettere una clausola nei trattati nel modo più indolore possibile e renderlo permanente. Anche sul patto di stabilità le linee generali proposte alla Commissione sono state adottate, ma da qui all'estate 2011 occorrerà definire nel dettaglio sanzioni, parametri, sforamenti, eccetera. Quindi di fatto c'è l'intesa per riformare il patto, ma poi andrà ben in qualche modo definita. Una questione riguarda da vicino l'Italia, è quella del debito che l'Italia vuole vedere aggregato tra debito pubblico e debito privato. Non c'è nulla di scritto, diciamolo subito, non c'è nulla di definitivo, però il premier Silvio Berlusconi a fine vertice ha parlato proprio di questo, dicendo che insomma a livello di conversazioni la cosa di inserire il debito privato è di fatto assodata. Sentiamo Berlusconi. Nessuno discute più sul fatto che i criteri per valutare lo stato di salute di un paese non possono essere ridotti alla valutazione del debito pubblico. Il debito pubblico deve essere aggregato, diciamo, alla finanza privata. La finanza privata di un paese è data non soltanto dal risparmio del paese, delle famiglie del paese, dalla loro proprietà della casa, noi ne abbiamo l'85%, da un sistema bancario solido, da un ottimo sistema che riguarda le pensioni, da una plusvalenza, un attivo della bilancia commerciale. Tutti questi dati fanno sì che ormai la valutazione che in Europa si fa con un cambiamento rispetto ai criteri di Maastricht veda quindi il debito privato e la finanza, il debito pubblico e la finanza privata. Per quanto riguarda la finanza privata, io devo dire che la situazione di particolare solidità delle famiglie e delle banche italiane ci porta ad essere in Europa il paese secondo solo alla Germania, poco distanti dalla Germania e prima di tutti gli altri paesi, Svezia, Gran Bretagna, Francia, eccetera. È importante anche dire che all'interno di questo meccanismo anticrisi che l'Europa, su cui l'Europa lavorerà a partire dai prossimi mesi, c'è anche una clausola di fatto voluta dalla Germania che implicherà, ovviamente anche questa va definita nei dettagli, ma implicherà che anche le banche e le istituzioni private collaborino alla ristrutturazione dei debiti pubblici. Questo l'ha voluto la Germania per rendere ancora più stringente la disciplina di bilancio. Questo è importante perché è di fatto una novità assoluta, quindi anche banche e tutti i privati, chi ha dei bond pubblici dovrà in qualche modo collaborare a ristrutturare debiti in eccesso. Torniamo però al premier Berlusconi. Berlusconi ha parlato anche della delocalizzazione delle imprese europee, ha detto i 27 leader la vedono come un pericolo e collegato a questo ha parlato anche di Fiat e di quello che ha detto l'AD di Fiat Marchionne domenica scorsa. Sentiamo allora cosa ha detto Berlusconi. Marchionne ha detto una verità dell'oggi e del domani. Non ha detto che la Fiat non ha avuto aiuti dall'Italia. Tutti sappiamo che la Fiat era ed è molto importante come fenomeno industriale anche per tutta l'occupazione che produce e che è stata molto aiutata dallo Stato italiano. Oggi tuttavia la Fiat si trova a dover gestire degli stabilimenti in Italia che hanno un altissimo costo della manodopera e in cui ci sono delle presenze sindacali che comportano un modus operandi tra l'azienda e le maestranze con delle regole molto limitative per l'azienda. Se ci spostiamo ad esempio in Cina, non soltanto la manodopera costa meno, ma è meno soggetta a direttive sindacali, lavora anche 12 ore e quindi ha un lavoro che rende molto di più. Tutto questo bisogna tenerlo presente, quindi quando un industriale afferma oggi io resto in Italia perché ho anche un sentimento patriottico e non voglio togliere quel lavoro che fino adesso ho dato agli italiani, bisogna capire che è giusto che dice questo è un fatto da considerare positivamente, da apprezzare, perché se io andassi, io imprenditore andassi in India o in Cina, avrei delle situazioni di lavoro molto più favorevoli. Allora, così si aggiornava il Presidente del Consiglio Berlusconi. Torniamo ai temi europei. Vedo molti messaggi sulla risposta del ministro Sacconi al giornalista. Vabbè, non vi preoccupate, ci siamo abituati. Ogni tanto i politici si innervosiscono. Evidentemente si vanno a toccare nervi scoperti. Ma dicevo, la Germania ha dovuto accettare fino alla versione più morbida delle sanzioni, ma da quello che ho capito, Sergio, Angela Merkel non ha rinunciato all'idea di sanzioni politiche. Si ipotizzava anche la possibilità, dopo aver sforato il debito e il deficit, di togliere il diritto di voto ai paesi, diciamo, non rigorosi sui conti. No, non ci ha rinunciato per nulla, lei oggi lo ha ribadito e ha detto che questo tema resta in agenda, resta sul tavolo. Il presidente dell'Eurogruppo invece, Juncker, Jean-Claude Juncker, ha di fatto detto questo tema viene rinviato sine die, insomma, si è fatto un favore alla Germania non togliendolo dall'agenda, ma tutti i paesi, praticamente forse Francia esclusa, sono d'accordo nel posporlo, anche perché poi alla fine Angela Merkel, inserendo questa clausola in qualche modo di coinvolgimento dei privati e delle banche nella ristrutturazione dei debiti pubblici, ha de facto reso molto più stringente le norme sul rispetto dei parametri di Maastricht. E sentiamo comunque quello che Angela Merkel, la cancelliera tedesca Angela Merkel, ha detto oggi arrivando al Consiglio europeo. Eine begrenzte Vertragsänderung notwendig ist, um einen permanenten Krisenmechanismus zu etablieren. Una limitata modifica dei trattati è necessaria per stabilire un meccanismo permanente anticrisi. Trovo molto positivo che questo meccanismo sarà definito entro dicembre per far sì che possiamo metterlo a punto entro il 2013. Sono molto contenta che il tema delle sanzioni politiche contro i paesi che violano il patto resti sul tavolo. La cultura della stabilità in Europa è l'alfa e l'omega della nostra convivenza. L'Europa ci rende forti, ma ha bisogno di regole e ieri abbiamo trovato l'intesa per riforme importanti. Questo quindi il commento di Angela Merkel, grazie al nostro ragionava in collegamento con noi da Bruxelles. E visto che siamo veramente in conclusione del programma e anche della settimana, un ringraziamento come sempre a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione, e qui in esterna a Davide Cioccia e a Paolo Corleone per l'assistenza tecnica in regia. Da Sebastiano Barigioni l'augurio a voi in ascolto di una buon fine settimana, ci risentiamo lunedì, ripeto, in diretta, i mercati sono aperti dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.